later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli è sempre troppo presto per sentir cantare il gallo, Kappa e Drago hanno trovato la porta della cantina aperta. Kappa, adesso non è che dobbiamo per forza bere tutta la cantina, no? Ma quale bere, quale cantina? Anzi, vabbè, quale bere no, perché bere bevo. Vedo, però fammi un po' vedere cos'è questo vino, allora, dai. Allora, il vino si chiama Morg, ed è, attenzione, una bevanda al gusto di vino prodotta e imbottigliata dalla fabbrica di polli S.P.A. Italia. Beh, bevanda al gusto di vino non è che tanto invitante, un po' come la bevanda bianca delle macchinette del caffè, presente, che invece del latte c'è la bevanda bianca. Ma dai, ma vabbè, ma Drago, Drago, il confine tra naturale e artificiale non è così chiaro ormai, dai, smettila di storcere il naso. Che ne hai da storcere tu di naso, sì. E non rovinarmi l'entusiasmo. Guarda che ho solo letto l'etichetta, Bastava non leggerla. È lì apposta, appunto, scrivono quello che vogliono sull'etichetta. Di solito sull'etichetta c'è scritto in modo migliorativo quel che c'è nel prodotto, no? Appunto, scrivono quello che vogliono. Ho detto migliorativo. Vabbè, ma anche peggiorativo, se scrivono quello che vogliono. Quindi questo può essere un Barolo fatto passare per un Morg senza data di vendemmia. Sì, per aggirare la DOCG. Non ti seguo. La diocesi. La diocesi, cioè tu aggiri la diocesi. Non ti seguo, dai, non importa. Vabbè, questo vino a me piace. Non è vino, è una bevanda al gusto di per vino. Me lo è vino, pazienza se non lo è, no? È come le tette siliconate. Come le tette siliconate. Cioè l'importante è il risultato finale. Ovvio. Come i trans. No? No, in quel caso il risultato finale non è esattamente quello che dovrebbe essere. Vabbè, dai, Kappa, l'epoca dell'immagine, il transgender, bisogna uscire da certe griglie ideologiche. Ma come parli? Il corpo come palco di una performance, come protagonista, i cyborg, tutta quella roba lì, capito? I trans, così, no? Drago, scusa, se mi devi confessare che vai con i trans, puoi anche farlo senza tirare fuori tutta sta cultura origliata. Vabbè, transgender, lo dici come un amico, mi dici, vedi, Kappa, a me piace prendere... Poi mi piace su... E poi mi piace infine... Ma me lo dici, io non ti giudico. Sì, però, Kappa... Perché io ti sono amico. Togli quella mano. Insider Trading. Finalmente! If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. La loggia è logica, la legge è stata fatta ad personam in negativo, mi spiego. Vabbè, ho capito che ha lavorato, ma a me in tasca che cosa me ne viene? Io vorrei consulere after the liquidation, as you know, insomma, mi hanno dato un prepensionamento, un incentivo, qualche cosa che io potessi dire sì, me ne vado perché ho un conguibus. E allora dopo però io devo poter continuare a lavorare perché ognuno viene... promosso al suo massimo grado di incompetenza, ma lì deve rimanere. Insider Trading. Stanotte ho sognato ancora una volta di essere un negoziante di dischi e mi sembrava di essere intorno a Natale, no? E i clienti mi chiedevano tutti i dischi che non avevo e oltretutto mi rendevo conto che tutti i dischi che mi chiedevano non li avevo ordinati volontariamente e quindi capitava tipo no, i Rage Against the Machine ce li ho. Eh no, però se vuoi te lo ordino, E in 5 giorni è qui. Ah sì, Tanto vale ordinarlo su internet? Beh, allora, ma cosa cavolo sei venuto qui a fare? Te ne stavi a casa tua e aspettavi il postino, no? È tutto così, avanti così, uno sbattimento. Allora mi sono svegliato qui nella fabbrica e avevo tutte le piume bagnate. Eh sì, perché noi sudiamo, Anche noi pole sudiamo. L'ultimo delle vibrazioni, l'ho finito. Ma perché non ti compri qualcosa di Edgar Fresh? Edgar Fresh, no? Guarda che bravo, eh! E comunque è meglio delle vibrazioni. Edgar Fresh faceva musica tutta strumentale. E tipo, era musica elettronica. Mica come le vibrazioni, Tutti i sequencer, tutte quelle robe lì, tutte quelle macchine, no? Arp, synthesizer, Korg. Ma cosa parlo a te? Che tu mi chiedi le vibrazioni? È vero, quello non ce l'ho. E allora te lo vai a comprare da un'altra parte. In the middle of nowhere. La fabbrica di polli! Ciao, sono Joao e ho un appello da fare. Tra molto meno di un mese sarò presa e macellata insieme a tanti miei piccoli fratelli. Ma io sono diverso da loro, perché sono Joao. Quindi ti chiedo un piccolo aiuto. Partecipa anche tu alla campagna Save Joao. E poi, ho ancora una cosa. Io ho fame! Ho tanta fame! K, qui continuano a trasmettere la voce di Himmler. Tagli al personale europeo della fabbrica di Poli non sembrano aver toccato la sede tedesca, a meno che qua non siamo in Germania, che quindi come ci in Germania? Sì, magari siamo in Germania, quando ci siamo persi in macchina in mezzo alla nebbia e alla campagna potevamo essere finiti ovunque. E secondo te eravamo finiti in Germania? Magari sì. Il pollo in sbattimento, l'amministratore, parlano tutti italiano. Sì, anche Tarek. No, ma Tarek non parla, dice delle parole, è diverso. Comunque le parole che dice sono italiane, perché pasta asciutta, patè d'olive, patè... No, ma allora vuol dire che non siamo in Germania. No, però potremmo essere in Svizzera. Questo spiegherebbe molte cose. La voce robotica in tedesco, l'assoluto anonimato della fabbrica e l'igiene quasi perfetta. Quasi. Sì, un po', sì. Drago, da Milano al Canton Ticino si fa presto. Sì, lo so. Qua c'è la Svizzera, lì c'è l'Italia. Un valico di frontiera mezzo sguarnito e, senza accorgertene, sei in Svizzera. Quando ero molto più giovane di ora, che pure sono ancora molto giovane, una mattina presto di inverno, per esame di materia chiamata Vita nelle Alpi, dovetti portare 5 vacche al pascolo. Ricordo ancora aria pungente e odorosa di resina che schiaffeggiava mia pelle delicata di ragazzo di città. E poi silenzio di Alpi, solitudine sublime di uomo in mezzo a immensità di natura. Ricordo che pensai a miei amici di scuola italiana che a quella ora dormivano in loro lettini caldi di città italiane e che ebbe pietà di loro, della loro debolezza che avrebbe per sempre minato possibilità di successo in loro vita futura. Però c'è anche da dire che portare vacche al pascolo era grande rottura di coglioni. Quello non dimenticherò mai, grande rottura. Vacche sono lente. Io divento nervoso. Sehr nervös. Le vacche sono molto lente. E capiscono niente di quello che tu dici. Vero? Hai visto? Tu blöde Kuh. Che cosa succederà adesso? Riuscirà lo studente K a evadere dal terribile ricordo dell'esame di vita nelle Alpi? Lo scoprirete solo domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo Farneticante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.